Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutti da Teresa, benvenuti alla prima puntata di Van Loon, progetto di comunicazione storica insieme ai ragazzi del caso S. Chi è il primo e chi sono i secondi, innanzitutto? Hendrik Willem Van Loon è stato un noto storico e divulgatore olandese. Guccini gli ha anche dedicato una canzone, per intenderci. Il caso S invece è un gruppo di studenti di storia dell'Ateneo di Bologna. Saranno proprio loro ogni due settimane a sottoporre alla nostra attenzione spunti di riflessione, articoli e recensioni, rigorosamente a carattere storico, anche se non mancheranno riferimenti all'attualità. In questa prima puntata parleremo della giornata della memoria. Perché è stato scelto proprio il 27 gennaio per le celebrazioni e dopo quale percorso? Per saperne di più, ascoltate Debs e Franz. Ciao a tutti, da Franz e Debs del caso S. In questi giorni abbiamo visto celebrazioni, convegni e dibattiti intorno all'ormai conosciutissima giornata della memoria, ovvero 27 gennaio. Ma cosa significa memoria per l'Italia? Parlarne non è semplice. La memoria pubblica, per esempio, non è spontanea come un qualsiasi ricordo. Può essere infatti costruita, manipolata o filtrata. Come è stata scelta la data del 27? Quale dibattito c'è stato? Qual è l'importanza delle celebrazioni pubbliche oggi? Il 27 gennaio ricorda la data dell'apertura dei cancelli di Auschwitz. L'ONU l'ha indicata come giornata internazionale della memoria e l'Italia l'ha scelta con una legge nel 2000. Ma era l'unica scelta possibile? Altri paesi hanno optato per date più personali, più legate al loro coinvolgimento nella Shoah. Nel caso dell'Italia, possiamo rispondere ricordando cos'è successo durante la discussione parlamentare sulla famosa legge. Le date proposte originariamente sono state, oltre al 27 gennaio, anche il 5 maggio, giorno della liberazione del campo di Mauthausen, e più significativamente il 25 aprile, a rimarcare come gli stermini rientrassero in un progetto di costruzione di un continente europeo popolato solo in base alle razze, condiviso a vario grado dagli stati dell'asse e quindi anche dall'Italia. E anche il 16 ottobre, 16 ottobre 43, giorno del rastrellamento a sorpresa del ghetto di Roma, ad opera delle SS e del comandante Kapper, fiancheggiate dalla polizia fascista. 1024 ebrei saranno deportati ad Auschwitz, solo 16 ritorneranno. È evidente la bagarre in cui incappò il Parlamento nel decidere la data migliore. La Camera comunque decise originariamente quella del 16 ottobre, in quanto voleva sottolineare la corresponsabilità dell'Italia nelle persecuzioni contro gli ebrei, chiamando in causa il manifesto sulla razza del 5 agosto 1938, nel quale si afferma «esistono grandi razze e piccole razze, ed esiste ormai una pura razza italiana», e che «è tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti». Si ricordava anche, nella discussione parlamentare, che a Trieste c'era un campo di sterminio, la Risiera di San Sabba. Insomma, la responsabilità italiana sarebbe stata messa in prima linea scegliendo la data del 16 ottobre. Ma nel testo finale non c'è nulla di tutto ciò. Gli errori italiani passano in secondo piano. Sono stati i tedeschi nazisti cattivissimi a mettere in moto la macchina infernale. Il mito degli italiani brava gente si ripropone con forza. Il testo riporta un evento tragico nella sua interezza, irripetibile e singolo. Ricorda la persecuzione degli ebrei italiani, ma tralascia la persecuzione italiana degli ebrei, quell'Italia che non si oppose al progetto di sterminio, anzi lo abbracciò in toto. Lo sterminio è stato un atto orribile, compiuto da altri. Noi ce ne laviamo le mani. Il 27 gennaio sgancia la memoria dalla Shoah da un contesto nazionale, portandolo verso un contesto internazionale e riconducibile alla storia e alla tragedia dell'umanità intera. Allora, a cosa serve la commemorazione? Omettere il ricordo delle leggi razziali e il diretto coinvolgimento degli italiani nelle persecuzioni, della memoria collettiva, ma anche i reiterati tentativi di vari governi di abolire il 25 aprile, sono dati che mettono in evidenza un problema peculiare della costruzione della memoria pubblica per come viene praticata dalle istituzioni italiane. Qualcuno non ha digerito questa o quella storia e per questo, anziché affrontare i problemi, non se ne parla. La questione è più complessa, ma ci permettiamo di esprimerla a bruciapelo. Una memoria che non ripercorre, non si addentra. Una memoria che sente il fruscio del tricolore nelle celebrazioni istituzionali, dimenticando il sapore del sangue versato in nome del proprio razzismo. Una memoria che punta a unire indiscriminatamente e in modo acritico, attraverso la rimozione più che la riflessione sulla complessità dei fatti. Molte volte retorica e cristallizzata, che rinuncia ad ogni funzione pedagogica di monito, facendoci così sacralizzare il passato e non stabilendo nessuna correlazione con le vicende presenti. Commemoriamo, ma non riflettiamo criticamente. Il problema è che la maggior parte dell'opinione pubblica poi ci crede fermamente, e così si ha la riproposizione quasi rituale di film come Schindler's List o di documentari abbastanza noiosi e per lo più a tarda notte. I più fortunati si ricorderanno anche di qualche aneddoto raccontato a scuola. La sensazione è che così si sprechino tante occasioni, anche quella di dare a questo 27 gennaio così generico il senso di giorno di riflessione sul razzismo, sulla dignità e sulla follia umana. Non possiamo non pensare, infatti, tirando le somme di tutto questo discorso sul senso della memoria, ad episodi di stretta attualità. la strage di Firenze da parte di un militante di estrema destra o i roghi applicati a campi rom di Torino, storia di ordinario razzismo degli italiani brava gente, abituati a vedere l'altro come diverso e come minaccia alla nostra brava gentilità. Quanto aiutano i media in tutto questo? Quanti TG o giornali sentite dichiarare puntualmente la nazionalità del criminale solo quando è straniero? Chi riflette su quanto scaricare le colpe sull'altro sia un modo collaudato e antico di cementare una comunità dietro a un capo salvatore e di farle dimenticare le proprie colpe? Con queste riflessioni il Caso S vi saluta, invitandovi a visitare il nostro sito www.casos.org. Arrivederci alla prossima puntata!